Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Qualcuno dice mercoledì, cioè già dopodomani. Io credo che l'appuntamento con lo scudetto sia fissato per la Juve domenica prossima, 6 maggio, a Trieste contro il Cagliari. Tra l'altro, pensate, in uno stadio intitolato a Nereo Rocco e a meno di 2 settimane dal centenario della nascita del Paron. Ma questo è certamente un duello alla finale già scritto, per merito della Juventus innanzitutto e per i demeriti che sappiamo in tempi recenti del Milan. Molto più appassionanti restano gli altri due di duelli, cioè quello che vede impegnati a lottare per non retrocedere Genoa e Lecce, intendo retrocedere sul campo, poi con le sentenze sul calcio scommesse la classifica potrebbe essere ribaltato, molto più probabilmente lo sarà davvero. E quell'altra per il terzo posto che vale il preliminare di Champions League. 4 squadre da ieri sera a 55 punti: Napoli, Lazio, Inter e Udinese, sono un segnale di vitalità di questo finale di campionato, ma anche e forse soprattutto di mediocrità, dato il punteggio, cioè data la quota 55. Poi ci sono tantissime altre curiosità, notazioni belle e brutte. Bella è certamente quella del ritorno al gol di Cassano, che per quanto sia stato facile spingere in rete quel pallone a porta vuota sull'errore del portiere del Siena, comunque ha un significato che va molto al di là del gol in se stesso. Se vogliamo parlare di suggestioni, ieri è stata una grande giornata per la famiglia Boniperti, perché insomma, è riapparso il presidentissimo della Juventus in tribuna a Novara al fianco di Michel Platini. Poi Novara è la sua patria, come quella di Platini, la provincia di Novara, e contemporaneamente, mentre nonno Boniperti era in tribuna a Novara, il nipote Filippo Boniperti segnava il suo primo gol da professionista con la maglia del Carpi Foligno 1-0, gol di Filippo Boniperti e Carpi qualificato per i playoff del campionato di Lega Pro. Altre cose ancora, queste di segno magari un po' meno piacevole e divertente, come sempre i vostri interventi in diretta all'800240024 per commentare insieme questa giornata di campionato, giornata in cui hanno esordito contemporaneamente i due giocatori più giovani dell'intero campionato. Uno si chiama Nicola Murru, gioca nel Cagliari e ha 17 anni, 4 mesi e qualche giorno. Nicolò Lolli del Cesena, appena più vecchio si fa ovviamente per dire, e ha 17 anni e 6 mesi. Ma i numeri, poi ve ne darò altri nel corso della giornata, i numeri che più impressionano e che più pesano oltretutto sulla classifica sono quelli che riguardano la Juventus. La Juventus è la prima squadra di sempre in Italia a restare imbattuta dopo 35 giornate di un campionato a 20 squadre. L'ottava vittoria consecutiva, no, questa è una striscia che si è già vista, ma che alla Juve non riusciva dal 2005-2006. Buffon ha mantenuto la porta inviolata per la quinta trasferta consecutiva ed è questa un'impresa che non riusciva alla Juve dalla stagione 78-79, quando in porta c'era il predecessore, no, del grande Buffon, e cioè Dino Zoff. Qualche voce da ieri. Io ripartirei subito dal posticipo di ieri sera, perché è stato molto ma molto avvelenato nel finale. Stiamo continuando a vedere delle cose inedite sui nostri campi. Poi ne parleremo con più calma, ma insomma domenica scorsa non ne parliamo proprio di quello che era successo a Genova con gli ultra che hanno obbligato i giocatori a levarsi le maglie. Sabato, di tutt'altro segno, ma anche quella del tutto inedita, abbiamo visto Simplicio salire in tribuna all'Olimpico con tutto comodo dopo il gol del pareggio. Ieri si è percepito fortissimo sul campo e anche in televisione questo triplice fischio finale che ha indotto i giocatori della Lazio a fermarsi. Il giocatore dell'Udinese invece ha continuato, ha messo il pallone, tra l'altro con un bel colpo all'esterno, nella porta vuota, e lì la Lazio ha perso la testa colpevolmente, perché era un gol che non cambiava più nulla, mancavano 10 secondi alla fine. Se il giocatore dell'Udinese, anziché tirare in porta, l'avesse semplicemente tenuta, la partita era finita, non avrebbe l'1-0 e il 2-0 non cambiavano assolutamente nulla in fatto di confronti diretti, che a questo punto peseranno nella corsa al terzo posto, e quindi e quindi davvero il crollo nervoso finale della Lazio, che costerà molto caro alla squadra in termini di squalifiche, è una cosa non da professionisti, perlomeno a parer mio. Partirei quindi proprio da Guidolin. Beh, ci stavano chiudendo la porta per questo mini torneo, perché se non avessimo vinto ovviamente saremmo stati in lotta per l'Europa League ma non per la Champions, e con una prestazione direi di alto livello oggi la mia squadra è riuscita a riprendersi, è riuscita a passare prima che la porta si chiudesse, cioè a vincere una gara importante, meritatamente, ripeto. I miei giocatori hanno detto che il fischio c'è stato, ma sicuramente non dalla panchina. Allora io voglio dire a quei ragazzi della Lazio, che, o alle persone della Lazio, a tutto l'entourage, che probabilmente come tutti mi hanno confermato c'è stato, ma è venuto dalle tribune. Io però, ve lo garantisco, non l'ho sentito. In ogni caso noi avevamo vinto la partita. E su questo mi pare non ci piova. Tra l'altro ha vinto la partita, una partita difficile, una partita non bella, ma con l'ennesima prodezza del grande vecchio di Natale. Mi sposterei a Lecce per ripassare cosa è accaduto in un'altra partita chiave, per una serie di ragioni, perché per esempio il Lecce veniva da una serie positiva, sapeva già quando è sceso in campo che il Genoa aveva perso a Bologna e quindi aveva la grande occasione di superarlo in tromba, tra l'altro, oppure come minimo con un pareggio di appaiarlo, e invece ha perso con il Parma, e quindi mi pare valga la pena di risentire in sintesi i commenti di ambedue gli allenatori, a cominciare da Donadoni. Non voglio fare dire le solite frasi, ma credo che la dignità che hanno dimostrato, l'impegno e la continuità soprattutto in queste ultime partite è qualcosa di straordinario, per cui devo dire veramente bravi a loro e fare complimenti a tutti. Abbiamo ancora 3 partite, quindi ci sono in palio ancora punti e noi vogliamo continuare perché abbiamo l'entusiasmo giusto, abbiamo anche una condizione fisica buona. Vero, il Parma, tra l'altro, adesso vado a pescare qualcuno dei numeri di Franco Piantini, del Parma è la quarta vittoria consecutiva, cosa che non succedeva dal 2005-2006, e dopo qualche paura, qualche momento di non panico, ma di paura certamente sì, un mesetto e mezzo fa circa, e invece è uscito con grande autorità in questo finale di stagione, grazie a tutti, grazie in particolare secondo me al lavoro di Donadoni, ma anche alle grandi qualità di Giovinco, che è una pedina ideale per una squadra di quella caratura. Resta il dubbio se non lo sarebbe anche per squadre di caratura superiore. Certo, Cosmi è di tutt'altro umore, perché ha perso questa grande occasione oltretutto alla vigilia della trasferta di dopodomani sul campo della Juventus. Cosmi. Questa è un'occasione importante sprecata, non definitiva per fortuna, però veramente c'erano le premesse per poter fare un cambio di classifica, un cambio di passo, un cambio. Adesso bisogna capire se questa squadra non ce l'ha fatta perché proprio non era in grado di poterlo fare, perché esiste nel calcio anche quella possibilità, oppure perché magari abbiamo sbagliato più di quello che potevamo sbagliare. Adesso queste sono valutazioni che dovete fare voi. Beh, insomma, effettivamente di sbagli il Lecce ieri non ne ha fatti pochi, ma il Lecce comunque è una squadra che 3 mesi fa era retrocessa, certamente, ed era retrocessa come e forse più di Novara e Cesena. Il fatto che sia lì a giocarsela ancora punto a punto significa comunque che quest'anno il lavoro di Cosmi è stato davvero eccellente. La Federcalcio inglese ha scelto il prossimo commissario tecnico dell'Inghilterra, che a sorpresa non sarà Redknapp del Tottenham, ma sarà niente meno che Roy Hodgson, ex allenatore dell'Inter, dove, ricorda impietosamente questo flash dell'Ansa, dove come terzino sinistro preferì Centofanti a Roberto Carlos. Questo effettivamente sono ricordi discretamente incancellabili, e questo redattore dell'Ansa se ne è dimenticato. Ci sono gli europei alle porte, dopo oltre 2 mesi dalle dimissioni forzate di Capello dell'8 febbraio. L'annuncio ufficiale non c'è ancora stato, è atteso entro le prossime 48 ore, ma ormai l'accordo è stato raggiunto, e quindi Hodgson, dopo aver già diretto in passato, essere stato il CT di Svizzera, Emirati Arabi e Finlandia, aver allenato in Italia l'Inter e l'Udinese, aver allenato il Blackburn e il Fulham, adesso approda niente meno che alla panchina cosiddetta dei 3 leoni. Vedo se ci sono già ascoltatori in linea. Sì, c'è Mario dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Volevo fare una osservazione riguardo alla partita di ieri sera e al discusso episodio finale. Leggendo il regolamento del calcio, si legge, si trova scritto che se un fischio dall'esterno disturba una delle squadre, l'arbitro deve sospendere l'azione e riprendere con una palla scodellata dopo aver ristabilito, diciamo, la situazione. Ora ritengo che non sarebbe cambiato il risultato, però mi sembra preoccupante che un arbitro che ha chiaramente sentito il fischio, in quanto fa chiaramente con la mano il segno di non aver fischiato lui, non sappia questa regola. Ma io non credo che la regola sia proprio così. Adesso, con l'aiuto di Franco Piantanida, vedo di richiamarla e di trovare questo riferimento regolamentare che lei ha citato. Così a memoria non mi pare sia così. E in ogni caso l'arbitro in campo è il giudice insindacabile, quindi nel momento in cui l'arbitro fa il cosiddetto ampio cenno di continuare, il giocatore dell'Udinese deve continuare l'azione. Indipendentemente da questo, davvero non si capisce perché i giocatori della Lazio comunque si fermino a quella maniera, a cominciare dal portiere, perché come il cenno lo vede il giocatore dell'Udinese e lo percepiscono altri, lo dovranno percepire anche loro. Fermo restando, lei stesso lo ha ricordato, che stiamo parlando di una sequenza di azione che si sviluppa quando mancano 10 o 12 secondi alla fine, e avendo la palla l'Udinese in quel settore del campo, cioè nella metà campo laziale, non c'è più materialmente la possibilità per la Lazio di ribaltare l'azione. Quindi questo non spiega l'isterismo. L'isterismo si sarebbe potuto spiegare se questo gol avesse cambiato la differenza reti, perché tra Napoli, Udinese, Lazio e Inter è chiaro che adesso si gioca tutto sui confronti diretti, ma non sulla differenza reti. La differenza reti all'interno del confronto diretto, che per l'Udinese, che per la Lazio 0-1 o 0-2 era influente, nel senso che era già comunque un saldo negativo. Mario ha chiamato dalla provincia di Milano. No, era lei Mario, vero? Sì, grazie. Sì, domando scusa, grazie. Allora no, cioè, colpa mia. Giulio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dunque, preciso una cosa, visto che ho sentito la telefonata precedente. Io sono un arbitro, anche se a livello dilettantistico, e non esiste da nessuna parte del regolamento scritto che l'arbitro deve interrompere il gioco. L'arbitro ha discrezione, se ritiene che un elemento disturbi e in quel momento anche lui possa essere confuso da questa situazione, può, ripeto. Ma è una decisione che aspetta lui, no Giulio? Lui a questo punto Bergonzi decide di far proseguire facendo così, poi uno può discutere se è stato giusto, sbagliato, opportuno o meno, ma cambia veramente poco. Quello che invece volevo dire, collegandomi a questo fatto, è che i nervi saltano esattamente alle squadre, mi sembra di vedere in questo periodo, nei periodi anche dell'anno, anche nei mesi precedenti, proprio quando saltano i loro allenatori. Il Milan, quando Allegri ha cominciato a sparlare, ha perso i punti che gli servivano forse per lo scudetto. La Juve ha perso punti quando Conte e Marotta parlavano molto più spesso. E Reia, che per due volte si è dimesso, che va sotto la curva dopo il derby, ma non è che voglio averla con Reia, è un esempio. No, è un esempio. La squadra ha quei nervi che sono esattamente lo specchio del loro allenatore. No, non solo, le aggiungerei, resti in linea, le aggiungerei che Reia, che è persona stimabilissima peraltro, fuori dal campo, in campo certamente non ha mai dato un buon esempio, perché è uno che ogni 2 per 3 viene espulso e quindi evidentemente anche questa mancanza di serenità sua finisce per trasmettersi alla squadra, cioè i giocatori con la bava alla bocca e che subiscono quella che loro ritengono forse in quel momento anche a buon diritto un'ingiustizia, anziché controllare le reazioni nervose, perdono la testa. Quindi mi pare che lei abbia davvero parlato come un libro stampato. Mi sembra un passo indietro dell'Inghilterra, scrive Giancarlo. Ma insomma, da cappello a Oxon direi proprio di sì. Poi c'è anche chi ironizza. Carlo scrive: Stramaccioni ha tirato un sospiro di sollievo a un concorrente in meno per la panchina dell'Inter. Federico Alessandria dice: per me l'Ansa sbaglia perché Oxon preferì Pistone e non Centofanti a Roberto Carlos, perché il brasiliano difendeva male. In effetti non difendeva straordinariamente così come attaccava, però era Roberto Carlos, effettivamente. Stefano ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Mi volevo un attimino rivedere l'episodio questo di Udine, sono un tifoso laziale ma sportivo, e mi dissocio completamente dal discorso della reazione dei giocatori della Lazio, dal direttore sportivo che addirittura dalla tribuna scende e comunque credo che faccia casino. Al di là di tutto, la Lazio non solo l'ha persa ieri sera, ma l'ha persa già qualche domenica fa, e purtroppo ieri è stata la ciliegina sulla torta e ha fatto sì che forse definitivamente la Lazio dà poche speranze per accedere al terzo posto, e se ne dovesse avere qualcuna sicuramente il responsabile arbitrale toglierà sicuramente qualche giocatore che al di là di tutti gli acciacchi saranno importanti. Io penso proprio di sì, Stefano. Tra l'altro la sentenza del giudice sportivo è attesa ad horas, cioè ormai è, se non imminente, è molto vicina, ma io credo che, a parte l'espulso, credo che anche Marchetti rischi una squalifica dura, perché Marchetti ha palesemente spintonato, ha messo le mani addosso all'arbitro, e non una volta sola, e quindi sinceramente lo vedo molto, ma molto male. Scrive Valerio, ecco un altro di quegli episodi a cui accennavo prima, sia pure, ripeto, di tutt'altro segno, apparentemente di segno più, comunque straordinariamente nazional popolare, quindi adesso mi immagino che quello che sto per dire non piacerà, ma mi ricollego a un messaggio firmato Valerio che scrive: trovo che la processione di Simplicio in tribuna per festeggiare il gol e baciare moglie e bimbo sia stata una cosa ridicola, andava espulso come minimo. Dunque io, Valerio, se andasse espulso o meno non lo so. Che sia una cosa ridicola, sì, però attenzione, perché qui stiamo toccando le mamme, stiamo toccando la sacralità della famiglia, eccetera. Io credo che in questo manicomio a cielo aperto che è il nostro calcio di oggi, Simplicio abbia semplicemente deciso di inventarsene un'altra. Ma certamente se questa cosa prende piede, lei si immagina gli scenari futuri con i giocatori. L'Olimpico, la tribuna è già abbastanza lontana, infatti ci è voluto il suo tempo, no? Perché Simplicio andasse su, baciasse il pupo, o comunque abbracciasse il pupo, poi il bacetto alla moglie, eccetera. Ma che vuol dire? Cioè, ma perché? Ma perché uno non può arrivare fin lì sotto e fare un cenno di saluto, stringere un pugno, mandare un bacio ai propri familiari in tribuna? Perché bisogna sempre esagerare, bisogna platealizzare, credo che sia un discorso, ripeto, anche in prospettiva abbastanza serio da fare. Cioè, io l'altra sera ho detto: ma meno male che sto pupo non è più proprio un neonato, perché sennò lì ci scappava, magari era il momento della poppata, non so io quando Simplicio tornava in campo, no? Io ho detto, trovo tutto questo davvero, io condivido lei, tremendamente ridicolo. Davide Verona, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo fare una domanda riguardo alla nazionale, riguardo alla Juve. Volevo sapere, secondo lei, può essere buono per fare un bel europeo se Prandelli prendesse un po' da esempio, diciamo, la Juve, nel senso da poter convocare un po' il blocco Juve e cercare di prendere spunto anche da quello che è il gioco di Conte, che è stato durante il campionato, insomma, dal 4-3-3, poter cambiare modulo in maniera così veloce come fa Antonio Conte, insomma, se può essere utile per poter fare un buon europeo e se secondo lei Prandelli può effettivamente prendere spunto da lui. La ringrazio. Ma un conto è prendere i giocatori, un conto è prendere un modulo, cioè Conte ha a disposizione, Conte e qualunque altro allenatore ha a disposizione i giocatori 6 giorni su 7, facciamo 5 perché uno è un giorno di partita, in una settimana media normale come ha avuto quest'anno la Juventus senza coppe, e quindi si può fare un certo tipo di lavoro, si può ripetere, insistere fino a quando quello che è più difficile da fare viene memorizzato e quasi meccanizzato. Prandelli, povero, non ci ha avuto nemmeno lo stage, vabbè, causa purtroppo la disgrazia che è successa a Pescara, ma insomma non ha il tempo, io credo, di di lavorare così in profondità sulla parte tecnico e soprattutto tattica. E quindi cosa può fare? Sì, può certo selezionare i migliori di stagione, come sempre è nell'incarico di un commissario tecnico, che si rispetti, ma provando a privilegiare la possibilità di un blocco. È chiaro che il blocco di quest'anno, ma lo sarebbe stato anche prima, adesso lo è a maggior ragione, è il blocco della Juventus. Io credo che l'intero reparto difensivo, parlo di giocatori italiani ovviamente, l'intero reparto difensivo, quindi da Buffon, passando per Barzagli, per Chiellini, per Bonucci stesso, non so De Ceglie, certamente non gli Steiner, appunto per ragioni di passaporto, e poi Pirlo e poi Marchisio, cioè, ci sarebbe stato comunque, ripeto, un bel blocco juventino in nazionale. Adesso ci sarà certamente a maggior ragione, questo credo che sia giusto, e credo che Prandelli ne sia ben felice, perché si ritrova giocatori con meccanismi già collaudati, abituati a giocare tra loro. Toccherà agli altri innestarsi, agli altri convocati, agli altri selezionati, e toccherà a Prandelli fare in maniera di oliare questi meccanismi. Torniamo in onda, ci sono altri ascoltatori che chiedono di intervenire, ci sono dei ripassi vocali ancora da fare. Il fatto che l'Inter sia rientrata in gruppo indubbiamente non era granché prevedibile fino a pochissime settimane fa, un po' è stato merito suo, certamente un po' è stato demerito altrui, visto che si sono quasi fermate per aspettarle, adesso dovranno fare i conti evidentemente con l'Inter. Sentiamo che cosa ne pensa il quasi neo allenatore Stramaccioni. Era la partita, diciamo, dell'aggancio, il sogno è essere stato scelto. Adesso, giorno dopo giorno, io mi sento l'allenatore dell'Inter e sto dando tutto per questi colori e con questi calciatori. E poi il calcio è fatto così, quindi le decisioni del presidente le commenterò nel momento in cui mi saranno comunicate, però adesso cercando di fare solo bene sul campo. Non sono io l'artefice di questi risultati positivi, sono i ragazzi. Affrontiamo partita per partita, sicuramente adesso non abbiamo un calendario facilissimo, ma siamo l'Inter e l'affrontiamo a testa alta. Vediamo che cosa dice allora il regolamento. Se uno spettatore emette un fischio e l'arbitro considera che tale fischio abbia interferito col gioco, ad esempio inducendo un calciatore a raccogliere il pallone con le mani, presumendo che il gioco sia stato interrotto, l'arbitro interromperà il gioco e lo riprenderà con una propria rimessa dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. A meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa su linea dell'area di porta, parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. È la regola 5, decisione numero 2, il che significa che non fa parte delle tavole, no? Antiche incise nella pietra, ma è frutto di successivi, non aggiustamenti, ma insomma successivi approfondimenti da casistica. Simplicio andava espulso anche per la paura che ha preso il bambino, scrive Nicola. Ecco, mettiamola così un po' sul ridere. Andrea da Udine ricorda invece un episodio che io sinceramente ho dimenticato o forse ho rimosso. Nobile dell'Inter contro la Roma nell'88, scriveva, questo mi sembra un po' improbabile, l'anno, sentì un fischio, toccò il pallone con la mano nella propria area di rigore, la cosa più comica fu la faccia di Agnolin costretto a fischiare il calcio di rigore. Sinceramente questa non la ricordavo. Paolo ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, complimenti per la trasmissione. E volevo mettere così alla sua attenzione il fatto che io vado allo stadio a Rimini tutte le volte che gioca in casa, e ogni volta che entro vengo perquisito per di ogni cosa che ho, accendini, portachiavi, e mi chiedo se poi è possibile entrare allo stadio con un fischietto. Questa è una cosa che secondo me, insomma, se le perquisizioni vengono fatte, i fischietti si trovano, poi metal detector o quello che è. Cosa ne pensa? Sì, no, non so che è difficile. Mi sembra che lo stadio ormai sia diventato un posto, non lo so, quelli non me ne intendo. Ci manco da anni e credo che a questo punto ormai la scelta sia definitiva. Quindi non sono pratico davvero. non accetterei mai, tra le altre cose, di farmi mettere le mani addosso per andare a vedere giocare a pallone. Proprio una cosa incompatibile con la, per me, ovviamente. Credo di non essere il solo confrontandomi con altre persone, ma insomma, diciamo che questa è una, è un mio, una mia scelta, magari un mio limite, ma... Però un fischietto penso che possa passare. Adesso il metal detector da fischietto è dura. I fischietti esistono in tutti i posti del mondo. Ogni tanto c'è uno che fa una furbata. Succedono anche le cose tipo ieri. Un po' sono comiche, un po' diventano drammatiche perché tutto ormai è buono per intorbidare le acque e non accettare i verdetti. Boh. Dunque Genoa-Cagliari in programma mercoledì allo Stadio Ferrari, cioè a Marassi, si giocherà a porte chiuse alle 20:45, ma non a Genova, a Brescia. Questa è una decisione dell'ultimissima ora che ha reso noto lo stesso Genoa che in accordo col Cagliari ha chiesto e ottenuto dalla Lega di poter giocare alle 20:45 in contemporanea con la partita del Lecce. Ah, ecco, così si chiarisce meglio. Perché? Perché la partita disputata a Marassi a porte chiuse, questo non si discuteva, a porte chiuse sarebbe stata anticipata dal prefetto di Genova ieri alle 15, ma poiché alle 15, poiché Juventus-Lecce si gioca alle 20:45, il Genoa ha chiesto di poter giocare in contemporanea e ha ottenuto dunque dalla Lega di giocare a porte chiuse, non più a Genova perché non sarebbe stato autorizzato, bensì a Brescia. Questa è la notizia. Giacomo ha chiamato da Roma, buongiorno. Ah, buongiorno Gigi, l'attesa di 20 minuti si giustifica perché lei nel panorama del giornalismo sportivo italiano, secondo me, è non al primo posto ma nei primissimi posti. Io di questo la ringrazio molto, le chiediamo scusa per i 20 minuti, però le dà un'idea del traffico in entrata che c'è. Ma no, lo capisco benissimo, le auguro buon lavoro, ma poiché come al solito il suo sommario è sempre stimolante, intelligente, che dà la possibilità di poter entrare parlando di cose con un minimo di condovizia di particolari. Io volevo parlare del giocatore della Roma che va ad abbracciare la moglie. Sì. Allora, una considerazione, io le devo dire che è una scena di grandissima tenerezza, non condivido le impostazioni degli altri telespettatori, anche se le rispetto naturalmente queste opinioni, sa perché è di grande tenerezza? Perché se è Simplicio fosse andato di corsa in tribuna e avesse baciato Belen o persone tipo Belen, dico fisicamente appetite, belle, così come adesso in questo mondo pazzo calcistico, come dice lei, se ne vedono di tutti i colori, e allora a questo punto avrei storto un po' il muso. Ma la verità, il vedere questo Simplicio che va ad abbracciare una donna grassoccia, senza fare mancamento naturalmente a questa signora, moglie del Simplicio, certo. una donna, una casalinga, una di quelle donne che sono apportate delle famiglie italiane. Questa cosa mi ha fatto molta tenerezza, non so se è chiaro, no, la considerazione la che tenerezza, faccio. La tenerezza la condivido, Giacomo, anche a me ha fatto in parte tenerezza, però torniamo un attimo indietro. Il calciatore, Simplicio in questo caso, chiunque in un altro momento, non è, come dire, non è in miniera, non è per mare per mesi, non è segregato chissà dove, è uno che per 90 minuti più un intervallo più qualche minuto di recupero è impegnato su un campo dove i suoi familiari lo possono tenere strettamente sotto controllo visivo, basta che vadano allo stadio. Le sembra indispensabile? Le sembra tempestivo uscire dal campo a 2 minuti dalla fine, più recupero, anziché all'ultimo minuto, anziché una volta arrivato il triplice fischio, non come quello di Udine, quello vero, arriva il fischio finale, Simplicio. Certo, a quel punto è più difficile convocare le telecamere, perché chi sta un problema, probabilmente, o una parte del problema. Però metti mai che ci sia un cameraman sveglio che segue questa salita in tribuna per immortalare questo, sono d'accordo con lei, affettuoso, tenero, quadretto familiare. In linea di massima, invece, finché si gioca, i giocatori sarebbero, come dire, tenuti a restare sul campo, no? E quindi abbia pazienza, ma con tutta la tenerezza, la comprensione eccetera, questa cosa è ridicola e fa parte comunque della deregulation attuale, per cui bisogna sempre inventarne una nuova. Gian Paolo Livorno, buongiorno. Sì, buonasera. Dunque, sarò sintetico sulle due cose riguardo al fischio dall'esterno. Quando lei poi ha specificato, ha detto benissimo, e l'arbitro quando ha sentito doveva non aspettare i giocatori, doveva essere lui a interrompere immediatamente, e lì ha toppato. Riguardo al fatto che lui è andato a baciare così di qua, di là, di su, di giù, che mi ricordo io dalla casistica, quando un giocatore deve abbandonare il rettangolo di gioco deve chiedere permesso all'arbitro o farglielo presente. Assolutamente. Perché qui si fa l'ammonizione a quello che si alza la maglia per gioire e invece si lascia correre. E purtroppo il gioco del calcio in Italia è diventato un vernacolo. Il regolamento l'hanno stravolto, considerando il fuorigioco, prima era in linea, poi non era in linea. Giampaolo, io sono d'accordo con lei. Io se ero Rizzoli lo cacciavo via, cioè gli dicevo: lo cacciavo via. Giovanotto, lei è uscito dal campo senza il mio permesso. Abbia pazienza, lei è andata a fare una cosa bellissima, però adesso sta fuori. Automaticamente, certo. Ma ci facevano, capisce però che ci facevano una puntata di Domenica In, Vespa faceva il plastico, questa è la cosa, perché è un gesto nazionale popolare, per cui è tenero, affettuoso, eccetera. I regolamenti, ma chi se ne fotte dei regolamenti? Questo gli è venuto ad andare a baciare il pupo, è andato a baciare il pupo. Andiamo avanti di questo passo, vediamo, per carità, vediamo quante cose divertenti, ma vediamo, mi ha scritto un ascoltatore prima, e se c'è un tifoso del Napoli che lo sgambetta mentre sale la scala e scoppia la rissa, crede che sia uno scenario impossibile? Assolutamente no. Cioè, i giocatori, ripeto, c'hanno 90 più 15 più recupero, hanno un'ora e tre quarti circa, poco più, da passare sul campo. Ma possibile che gli scappa così tanto di baciare la moglie o il figlio che durante la partita? Aldo, Pisa, buongiorno. Pronto? Dica. La sento molto piano al telefono. Comunque, volevo dire, non so se ne avete parlato perché ho aperto in ritardo, ma il gol dell'Udinese, il secondo di ieri, che chiaramente poi ha provocato quella sceneggiata che condanno assolutamente, non è vero comunque che sia ininfluente. Pronto? Perché? Perché avendo visto la possibilità per niente impossibile che arrivino assieme il Napoli, l'Udinese e la Lazio, non l'Inter, il che è ben possibile perché l'Inter potrebbe perdere punti nel derby, ad esempio. In caso di parità di quelle tre squadre, in questo momento l'Udinese sarebbe avanti a tutti, perché manco a far la posta, l'Udinese ha fatto 4 punti vincendo in casa e pareggiando con la Lazio. La Lazio ne ha fatti 4 con il Napoli e il Napoli 4 con l'Udinese, quindi sono tutte pari punti e sono tutte anche differenza reti 0 nella classifica avulsa. Però l'Udinese ha 6 gol fatti, 6 subiti, Napoli 5, Lazio 5, quindi l'Udinese è avanti, senza quel gol sarebbe avanti la Lazio, forse è per questo che si sono così arrabbiati, ma non so perché nessuno l'ha rilevata questa cosa. Io non sinceramente, adesso ricontrolliamo per bene, con calma, perché lei indubbiamente introduce un elemento nuovo in questo giallo. Dopodiché, se lei mi dice che Dias, piuttosto che Marchetti, piuttosto che quelli che hanno perso la testa, erano a conoscenza in quel momento di questa classifica avulsa, io mi arrendo, alzo le mani e passo la linea al traffico. È il 30 aprile, sentiamo che cosa questa giornata ha ispirato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 aprile 1978, penultima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 1-1 la sfida tra la Roma di Giagnoni e la Juventus di Trapattoni. Al vantaggio bianconero firmato da Bettega, replica un brillante di Bartolomei, giunto alla nona rete stagionale. Il punto conquistato a Roma è sufficiente ai bianconeri per conquistare matematicamente lo scudetto numero 18, il secondo consecutivo della gestione Trapattoni. Alle spalle della Juventus, sorprendentemente in seconda posizione insieme al Torino, si piazza il Vicenza, trascinato dal capocannoniere Paolo Rossi, a segno 24 volte. Beh, qualcosina di carino, direi di pertinente anche dato il periodo. Nicola Filippone ha trovato anche oggi. Giornata speciale, quella di ieri per Boniperti, raccontavo all'inizio, sia per la visita alla Juventus e per sul campo di Novara, sia perché suo nipote Filippo ha segnato il suo primo gol di professionista con la maglia del Carpi. Giornata speciale anche per Platini, una rimpatriata che aveva annunciato e promesso da mesi sia ai suoi parenti di Agrate Conturbia, sia alla Juventus e alla tifoseria juventina. Sentiamo cosa ha detto durante la giornata. Sono venuto a vedere il Novara. Bravo. Ma Del Piero finirà la carriera come gli pare buono di finire la sua carriera. Mica voi a dire quello che deve fare lui. Non ci abbiamo non solamente dei problemi con il calcio italiano, abbiamo dei problemi con tante cose. E l'appello che ho sempre fatto a voi, come a tutti quelli che amano il calcio, è di proteggere questo gioco. E non è solamente una cosa italiana, è una cosa da tutta l'Europa, da tutto il mondo. Presidente, secondo lei, se la Juventus dovesse mettere la terza stella, potrebbe giocare in Champions con la terza stella? O è un problema solo della Federcalcio? Questo è un problema italiano. Prima cosa, non lo sapevo, l'ho solamente imparato solamente adesso, dunque penso che è un problema italiano, non un problema dell'UEFA, questo è un problema del calcio italiano. Per il momento certamente, poi eventualmente si vedrà o si vedrebbe, no, anzi si vedrà, perché che lo scudetto vada alla Juve non è più in discussione, che sorga prima o poi questo problema invece pure, direi proprio altrettanto certo. Antonio Conte, dopo questa ulteriore vittoria rotonda che porta la Juve mantiene la Juve a più 3 e bonus che equivale a più 4 quando i punti in palio sono rimasti soltanto 9. Stiamo bene, la squadra è concentrata e determinata e sono molto contento perché al di là della vittoria io penso che abbia visto la partita, abbia visto veramente giocare una squadra molto molto bene a calcio con grande intensità, con grande determinazione. Non lo sappiamo benissimo perché i calcoli li sappiamo fare anche noi. Ci stiamo avvicinando nella maniera giusta, vincendo, sapendo che abbiamo un grandissimo avversario come antagonista, sapendo anche però che ci siamo davanti noi e che siamo noi i padroni del nostro destino. Una notizia che arriva da Roma, a proposito dell'ipotesi di boicottaggio che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha lanciato nei confronti dell'Ucraina, sulla vicenda del leader dell'opposizione ucraina Yulia Tymoshenko. Il ministro dello sport italiano Piero Gnudi ha appena dichiarato: quando vengono violati i diritti soggettivi e i principi democratici, lo sport non può voltarsi dall'altra parte. Allora, questo significa che il governo italiano sembrerebbe intenzionato a dare una sponda alla Merkel in questa presa di posizione così dura, e questo non dico che metta in dubbio lo svolgimento degli europei in Ucraina sin da ora, ma una complicazione in prospettiva certamente la crea, e credo sarà una vicenda che andrà tenuta d'occhio con una certa attenzione, anche perché all'inizio dell'europeo d'Ucraina ormai mancano meno di 40 giorni. Ancora una voce? No, io credo degli ascoltatori, devo soltanto ritrovare il display. Scusate, Pino ha chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno, sono dottor Giovanni. Volevo chiedere una cosa: secondo lei Giovinco torna a Torino? E la seconda cosa è cosa deve fare la Juve perché Allegri ammetta che è più forte del Milan, almeno quest'anno, dopo che ha asfaltato Napoli, Roma, lo stesso Milan, l'Inter e tutte quante? Sono 35 partite che non ha perso una volta. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. In compenso il Milan ha vinto, mi pare, ancora una partita in più. Io non credo che si convincerà mai che la Juventus è stata più forte, nel senso che gli resterà comunque il tormento di, come minimo, di quell'episodio che cambierebbe notevolmente la classifica, no? Perché in questo momento non sarebbe da solo determinante, perché il Milan avrebbe 2 punti in più e la Juventus uno in meno, e quindi sarebbero sempre alla pari. Però è chiaro che bisognerebbe vedere quale sarebbe stato il confronto diretto, quindi mi faccia grazie, questo è un problema che riguarda Allegri e non certamente me, immagino nemmeno lei, a occhio. Giovinco non ho idea, questa è una scelta che deve fare la Juventus. Io faccio fatica a pensare che Giovinco tornerà indietro, che la Juventus tornerà indietro, perché credo che Giovinco ci tornerebbe anche volentieri, però credo anche che a questo punto qualche garanzia la potrebbe, non dico pretendere, ma provare a chiedere, qualche garanzia di impiego. Non mi sembra una squadra, una società come la Juventus in grado di dare garanzie a che sia, quindi non credo che andrà così. E mi piaceva far notare ieri la pulizia di alcune partite che in tempi passati avrebbero potuto prestarsi ad altri risultati e di conseguenza a sospetti. Comincerei dal Parma, che è andato a giocarsi a Lecce una partita in cui un pareggio sarebbe stato più che soddisfacente. Quel pareggio sarebbe servito al Genoa per agganciare il Lecce. Il Parma si è giocato la partita fino in fondo e l'ha vinta in trasferta. Il Bologna non era in una situazione psicologica facile nei confronti del Genoa, ha giocato la sua partita, ha segnato 3 gol e l'ha vinta. Direi che lo stesso Cesena a San Siro si è battuto con molta lealtà e quindi mi pare che le tre emiliano-romagnole ieri vadano particolarmente elogiate. Roberto ha chiamato da Cremona, buongiorno. No, Roberto ha chiamato da Cremona, ma dunque se ad arrivare in fondo, adesso parliamo di classifica avulsa, saranno invece 3 squadre insieme, leggo da regolamento, Napoli, Udinese e Lazio per esempio, quindi attualizzato, sarebbero tutte a 5 punti nella classifica avulsa, pari anche nella differenza reti e sconti diretti e dunque conterebbe la differenza reti totale che per ora vede Napoli a più 19, Udinese a più 12 e Lazio a più 5 e quindi è difficile per non dire impossibile che il gol di ieri conti alla fine. Quindi Franco Piantanida 2, ascoltatore di prima 0. 14:54 e 43, un collegamento è ancora possibile, l'amico di Cremona di prima, era caduta la linea. Dica, buongiorno. Pronto? Roberto, buongiorno. Sì. Ah sì, ma sono di Pavia, non di Cremona. Di Pavia, domanda scusa, vede che beh, ma insomma, è la vigilia del 1° maggio, siamo un po' di ponte oggi. Dai, va bene. Comunque niente, volevo parlare per quanto riguarda la Lazio, no, che tutti gli hanno dato addosso. Io penso che è un'ingiustizia, anche se la partita era già persa, è sempre un'ingiustizia, lì non c'è stato fair play, visto che tutti hanno sentito il fischio di tutti i calciatori, non doveva neanche fare gol, e poi l'arbitro, che ha dimostrato anche in passato di non avere minimo buon senso, la torta ha espulso il portiere, che non era l'ultimo uomo, ancora una volta si è dimostrato lui che vuole fare sempre il protagonista, mm-hmm. E questo arbitro qua, c'aveva certo. Un po' di buonsenso, fermava la partita lì, annullava il gol e faceva finire la partita così, Udinese vinceva e non c'erano tutti questi problemi e tutte le reazioni. È facile dire così, la reazione è sproporzionata, quando uno è in campo subisce un'ingiustizia, perché lì loro erano in buona fede, convinti di aver sentito il fischio finale e quindi c'è stato poi dopo tutto un seguirsi di sì, sì. E invece per quanto riguarda Semplici, così a me invece fanno ridere anche i balletti, quindi, perché io nel mio piccolo ho giocato a calcio e mi ricordo un'espulsione che ho subito quando ero un ragazzino, giocavamo una partita, stavamo vincendo 5-1 contro una squadra insieme al campionato allievi, io scartai un po' tutti i difensori e poi invece di segnare sono ritornato indietro e l'arbitro mi diede una bella punizione morale, soprattutto mi caccio fuori. Grazie Roberto, c'era Pietro Lacorte in regia, c'era Franco Piantanida in redazione, ci sentiamo regolarmente domani 1° maggio, buon pomeriggio.